Yeah, hey. Oh, eccoci qua, una nuova puntata di Radio Lanterna Pirata. Edizione podcast. Edizione podcast, ovviamente. E sia sempre io, ovvero io, me medesimo, il sottoscritto, l'amabile orso pane di quartiere. È il suo ego smisurato. E vicino a me, chi se non lui, ovvero il Numa Pompilio della scena pancarcore genovese, l'immarcescibile Gippi. E con noi chiamiamo... Abbiamo Mr. Turi Messineo, ok, no, perché ci eravamo chiesti venendo in qua, perché guarda, invece guarda che se dici Messineo fai una figura di merda, ma poi, poi scappa di mano, sfugge la situazione di mano, esatto, è una di quelle cose che e onde evitare ho chiesto il tuo cognome e infamemente gli ho detto fatti in modo che lo dicesse lui, hai visto? Comunque abbiamo tolto subito il dente. Ah sì, va bene, dai, e dopo esserci fatti un bel giretto per Genova per far vedere un po' di Genova, siamo qua a parlare di cosa? Lo dico io, Piccolo, uno sguardo sull'underground italiano, che è il libro e film documentario che ho prodotto e ho scritto e ho girato nell'arco di 2 anni, perché ci sono voluti 2 anni, 2 anni e mezzo, ed è finalmente uscito l'1 aprile grazie a Eris Edizioni di Torino, che già tempo fa mi aveva contattato proprio perché è interessata, dopo che avevo messo online un primo trailer del film montato da me in maniera abbastanza scarsa, potremmo dire. Ci eravamo sentiti, poi ci eravamo visti a Torino da loro in sede, e da lì poi è nata la collaborazione, la loro scelta di pubblicare appunto il mio libro. Per me è stata ovviamente, è stato un motivo di grande felicità, perché è difficile anche trovare una casa editrice che ti pubblichi un libro, quindi che è un libro anche corposo, infatti più su determinati argomenti, che non... sì, che spenda anche dei gran soldi per poter mandare avanti anche una pubblicazione e una distribuzione, anche perché loro come casa editrice avevano fino a quel momento lì lavorato tantissimo e bene, soprattutto con i fumetti, quindi comunque per loro era una grande scommessa anche pubblicare un saggio di attualità, di sociologia, potremmo dire, perché comunque sono argomenti che potrebbero rientrare in quella che si chiama sociologia, appunto. Benissimo, dunque, tanto è stata anche proprio una scommessa che non è sempre scontato che esca in contemporanea un libro e un DVD assieme. Quindi di solito esce uno o l'altro, mi viene in mente Torino Hardcore, Roma Hardcore, oppure i libri, che ne so, l'ultimo che ho letto, Lo Stivale Marcio sulla prima scena punk italiana. È capitato che... magari nel caso di American Hardcore già c'era. Sì, è vero, però comunque usciti anche loro, non credo in contemporanea. Ma ti dirò, guarda, quella è stata più che altro una scelta, nel senso, quando ho cominciato a scrivere mi è subito venuto in mente di inserire le interviste all'interno del progetto, quindi di non creare soltanto una roba discorsiva, ecco, descrittiva e basta. E quando ho pensato all'intervista, ovviamente ho detto sì, è facile, posso anche inviare delle email con delle domande e aspettare che il personaggio X mi risponda. Però era una cosa, non era la stessa cosa. Che divertimento c'è. Infatti, che divertimento c'è. Allora, io lo facevo spesso per la fanza. No, vabbè. Però sono delle cose più veloci, dato che comunque era una cosa. Non avevo detto esatto, finisco in questa data qui, quindi comunque mi sono preso il tempo che volevo, ho cominciato a viaggiare in Italia da solo e ho detto, una volta che incontro il personaggio mi porto dietro una telecamerina e mi faccio la ripresa dell'intervista, così poi da montare un film. Ma è stata anche un'occasione utile per poter incontrare quei personaggi, alcuni dei personaggi di cui avevo solo sentito parlare quando ero ragazzino. Poi ti ci trovi a confronto ed è una cosa stupenda, con Fabio De Vrecce ed è stato così, con Dimo è stato così, per esempio con Stefano De Nabat, che l'avevo soltanto visto sui palchi o in sala prove quando andavo a provare quella in State a Bologna, nella sua saletta prove l'avevo solo visto dall'esterno, poi quando intraprendi un'intervista è diverso. Benissimo, e ci andiamo ad ascoltare adesso un pezzo, tua scelta. Lanciamo, non so, potremmo utilizzare alcuni dei brani che ho inserito nel film, potremmo partire da non so, un brano dei Sottopressione, magari. Micro mega paesaggio, non sì, so, va benissimo anche quello. Beh, va bene anche te, vabbè, anche distruggersi per poi risorgere. Anche distruggersi, vabbè. Insomma, si, dai, si sfondano portoni aperti. Sì. Perfetto. se non avessi mai iniziato. Ma per quanto mi sforzi il presente, ho fatto solo il passato. Eccoci dopo un classico dell'hardcore italico, proprio, cioè proprio da quelli da canzoni che da di cui non si, da sussidiario dall'abbecedario, quelle che le devi sapere, sennò poi ti rimproverano. Di, allora... no, di come distruggersi per risolvere. Bene, dunque, visto che siamo in vena di domande, poi anche lì sul rimprovero ci sarebbero da fare discorsoni, però. La domanda che volevo fare io è, vista la notevole mole che comunque ha il progetto, è comunque un progetto super ambizioso, no? Sei partito da 68 fino ad arrivare oggi, soprattutto guardando anche indietro tutta la mole di documentari che sta uscendo adesso, quelli che abbiamo citato prima, quelli che usciranno adesso come Dritti contro un muro, adesso ormai lo stanno dicendo da un paio di anni, però di solito quei documentari lì sono sempre circoscritti a una determinata città o comunque un determinato ambiente a un determinato periodo. Cos'è che ti ha spinto a fare ad approcciare questo progetto qui in una maniera che sia così omnicomprensiva, e quali sono i criteri secondo i quali tu poi hai selezionato le interviste nei documentari e diciamo il filo rosso che grazie al quale tieni assieme comunque un progetto che insomma non è proprio da tutti? Guarda, è un progetto vasto ed effettivamente anche posizionarlo dietro a una parola come underground, a un termine come underground, è stata anche lì un'ulteriore scommessa, proprio perché il termine underground è un termine così vasto che dentro ci puoi mettere di tutto, ci puoi mettere anche la musica elettronica per quel che riguarda il rave, per esempio, comunque riguardano un aspetto dell'underground in Italia in particolare, come magari in Germania, perché lo sviluppo è stato è andato avanti in contemporanea. La scelta di inserire vari ambienti, diversi ambienti e diversi periodi è stato proprio quello che dicevi tu prima, nel senso, fino a oggi sono usciti tantissimi libri, dei bellissimi libri, come può essere Costretti a sanguinare di Marco Filopat, Storia di assalti frontali di Militantà, che raccontano dei periodi e che raccontano delle scene. La mia era proprio la voglia di raggiungere finalmente tutti coloro che non ne hanno mai sentito parlare, che non hanno mai vissuto nemmeno una parte, nemmeno un periodo, un momento di queste storie qui e di questo ambiente qui, e che vedendolo da lontano si sono ritrovati anche in una posizione molto facile nel poter puntare un dito e dire: ah, tutto quello che c'è lì è estremo, tutto quello che c'è lì è una follia, è una roba da pazzi. E poi lo stesso approccio che avevo anch'io per esempio per la fanzine, no? Quando tu scrivi una cosa del genere, cioè che lo fai per passione, però hai un tuo, diciamo, lettore ideale, no? Per cosa certo. scrivi per chi a queste cose qui ci ha abituato, comunque le frequenta in un certo periodo, oppure inizi a scrivere per tutto un determinato pubblico, hai un, chiamalo target, ma no, persone, ma target, cioè non è che quel target è di mercato, ok, va bene, certo. Ma target in sé target, è cioè giusto, il tuo ideale, quando... nel caso di Loser Times era: ok, io voglio raggiungere tutta una serie di persone che magari col punk hardcore in sé non c'hanno a che fare, chissà, proprio per levarlo anche da questa stigmate che c'ha, che è per della forza qualcosa certo. di nicchia e per forza misantropico, per forza negativo, che deve esatto, essere... Esatto, è proprio il ragionamento che ho fatto io, infatti leggendo, poi per chi leggerà il libro ovviamente, ci si accorgerà che ho utilizzato apposta un linguaggio molto semplice e quasi discorsivo, piuttosto che da lettura, da saggio, però vero e proprio. Ed è stata la scelta, credo, più semplice per poter arrivare anche, facevamo un esempio con i miei editori, alla cassiera del supermercato, del Carrefour, che se gli arriva in mano questo libro deve poter arrivare alla fine del libro, perché poi è facile annoiarsi quando leggi un sacco di nomi. Soprattutto in questi saggi qui, tipo, c'era già l'altra biografia, quella lì che scrivevano su... Burning Britain, cioè quella, sì, che in italiano si chiama diverso, si chiama quella quando, volta no, che quando bruciamo l'Inghilterra. L'Inghilterra. Mm-hmm. E comunque a me non ha mai preso, perché scriveva questa cosa qui del tipo, ah ok, c'era tot gruppo, ha fatto tot singoli per tot etichette, e ogni cosa, cioè la parte di vissuto era tenuta a un minimo, no? Quindi anche lì immagino ci sia tutta una specie di equilibrio da cercare, certo, di mantenere. E tra l'altro il voler inserire anche le interviste ha aiutato, perché oltre ovviamente alla parte descrittiva del momento, del periodo che si stava vivendo, come può essere il secondo capitolo del libro, che è esclusivamente cronologico, quindi si parla dei vari periodi caldi, diciamo, di quello che ha vissuto anche la storia italiana, non soltanto la scena underground italiana, quindi il 68, il 77, e poi la fine degli anni 80, l'arrivo delle droghe, degli oppiacei, la diffusione degli oppiacei, poi gli anni 90 e la Pantera, serve anche l'intervista proprio per tirar fuori degli aneddoti che alleggeriscono anche il racconto, perché almeno così scorre, ecco, mentre ascolti quello. Ma comunque che... gli aneddoti a livello ambientale sono fondamentali. Fondamentali, esatto. Perché sennò fai sembrare che sostanzialmente, cioè, diventa una cosa anche abbastanza fredda. Erano appunto fuori dall'umanità, invece scoprire che poi, se mi si permette il termine, fanno la cacca, la pipì tutti quanti, certo, a un certo punto della giornata, allora si tratta di storie di esseri umani come me. Certo, quello è anche arrivare a capire cos'è effettivamente, l'ho spiegato un po' nel capitolo terminologico, che è il primo, tentare di capire effettivamente cos'è la normalità. Io parlo molto di questo termine all'inizio del libro e dico, ma effettivamente cos'è la normalità? Quando io mi sento dire che la musica punk è una roba anormale, che è una roba eccessiva, o il vivere una situazione di militanza all'interno di uno spazio occupato è una situazione anormale, anomala, effettivamente cos'è normale? Perché allora per me è più anormale sentir parlare di delinquenza, di spaccio di droga, piuttosto che di occupazione di un luogo che magari è pure abbandonato e rimasto vuoto per anni. Quindi effettivamente l'underground dovrebbe aiutare a sensibilizzare anche tutte le persone che non hanno mai calpestato determinati ambienti, ed è quello che ho voluto fare inserendo diversi argomenti, e non soltanto il punk o il rap o il tatuaggio, ma tutto quello che si può inserire, quindi la voce delle radio, le radio libere, le scelte personali, il veganesimo, il vegetarianesimo e tanti altri argomenti che si trovano all'interno del libro. Nell'ultimo capitolo poi la scelta di voler raccontare ovviamente il mio percorso, tutto quello che mi è successo sin da quando sono un ragazzino, secondo me è importante, ed è stato importante per me, per un'esigenza personale, per raccontare effettivamente quello che ho vissuto, che poi è questo, perché senza tutte queste esperienze non sarei nemmeno riuscito a costruirmi un profilo personale, non sarei me stesso, perché comunque queste esperienze mi hanno aiutato a essere me stesso, quindi avevo anche l'esigenza di voler raccontare, e l'esigenza come l'attitudine credo che siano due dei fili conduttori che legano tutti questi ambienti, perché in tutti questi ambienti si parte da un'esigenza di voler comunicare, di appropriarsi di luoghi, di voler raggiungere una certa tranquillità con anche altre persone che condividono la tua stessa idea, ma è anche la voglia di costruire su se stessi una personalità per poter avere una forma, per poter avere insomma una persona, un'identità. Identità. Bene, direi che possiamo mettere un altro pezzo e poi continuiamo. Cosa scegli? Scelgo Nero Inferno di Stock & Mad Buddy, che è un pezzo rap che mi sta molto a cuore, anche perché si lega moltissimo anche alla mia città, che è Palermo, e che credo sia importante da ascoltare proprio perché si parla di rap, per come è iniziato e come si sta diffondendo adesso. Quindi Nero Inferno di Stock & Mad Buddy. Perfetto. Talk about it, talk about it. Your name is a star when your name cosa credi serva ancora poco per darci due input? Distruggo queste cellule col volto di un dipinto. Se poi volete dare una ragione a chi sta fuori, qui è come dare picchia alla tua regina di cuori. Cosa volevi avere in cambio di due telecamere? Infrangere il divieto che poi ci vieta di infrangere. La notte qui fa freddo, meglio un becco al pomeriggio, col prezzo di un pezzo per la campagna di un ministro. Ancora dare un giusto modo che smuove sto voto, spiegando che una foto fa parte di questo gioco. Insomma le denunce e i processi, chi sfrutta questi eventi son coloro che ritrovi a scrivere sui muri dei cessi. Il perbenismo ci fa schifo in sto governo, a mani più nere che le mie, nero d'inferno. E se in passato ero calmato da un buon vento, adesso faccio fuoco con un marker, tu stai sentendo, ehi. Non puoi capire cosa spinge questo tratto, non c'è una lama che taglia questo contatto. Non servirà a fermarlo qualche tuo ricatto, non è un fenomeno, è un dato di fatto. Tutti i ragazzi in strada, lock on, lock on. La linea, la lotta armata, lock on, lock on. Con marche e bandana alzata, lock on, lock on. E gli erano ferro sulle titi avvicinato, cerca facce. Colpevoli senza luci dentro ai vicoli coi flop e la tecnica traccia e cuci. Uso la forza dentro il tunnel se salto i tombini e per scrivere tutto dalla coda fino ai frontalini. La polizia cerca le bande, una rivolta di infottati sopra il bus col marker nelle mutande. Con sto che vadi nello stereo per farsi domande, i guanti di Fat Cap riempire all'istante. Il fatto è che dal mio pensiero vi trovo distanti, i flash che scattano le foto e fermano gli istanti, i treni trash che testimoniano i primi rimpianti, sfidando il buio con la polvere che bestemmia i santi. La yard è piccola, la notte ride, la scena è ridicola, con un coltello fotto la pellicola. E nero inferno dietro un passa montagne le schegge, il nostro amore non è la nostra legge. Peace. Non puoi capire cosa spinge questo tratto, non c'è una lama che taglia questo contatto. Non servirà a fermarlo qualche tuo ricatto, non è un fenomeno, è un dato di fatto. Tutti i ragazzi in strada, lock on, lock on. La linea, la lotta armata, lock on. Del cuore che brucio, che brucio, che brucio. Quando si scappa dimmi dove rifugio, rifugio, rifugio. Sapessi quante cose vede la notte le sa solo lei. Per questo adesso devi stare tranquillo, tu sei la coscienza di quello che crei. Il tuo nome è maledetto e più lo spinge più ti piglia. Lo scrivi sulla superficie che più gli assomiglia. Con colpi come 5 carrozze di 2P, coi ferrini che bestemmiano il tuo nome messo lì. Gli toccherà lavarlo e più ci provano a sgamarlo, con foto appostamenti arretate col carro armato. È il dolore che ti guida, questo gioco per lo spazio è il volto del silenzio, yeah, che precede qualche scatto. Evolvo le mie lettere in posti da zero chiasso, persi tra gli sketch nel meglio dei vostri Picasso. L'odio è nero inferno, rubo qualche bombola, carezza ai vostri cani e stasera la mia crew ha fatto tombola. Ripassano i miei stili in una città sulle sue, vecchi maestri sul metallo props a fase 2. Tutti stupiti per il tratto gigante, neri come il manganello nel culo di un vigilante. Non puoi capire cosa spinge questo tratto, non c'è una lama che taglia questo contatto. Non servirà a fermarlo qualche tuo ricatto, non è un fenomeno, è un dato di fatto. Tutti i ragazzi in strada, lock on, lock on. La linea, la lotta armata, lock on, lock on. Con marche e bandana alzata, lock on, lock on. E nero ferro sulle dita, non lo devi più. Ok, gatto, PSF crew, Venu, utero, Fang, Fra 32, Left, 100, Dank, Vero, Note, DCA, Duo, Beck, Zue, GFK, Pass, Ritual, Blow, RVRZ, Zwick, Mossone, Twesh, Seman, Neo, Rock, Ringo, Rex, Goldface. Rieccoci, dunque. Da quello che stavi dicendo, quindi non si può se si dovesse identificare geograficamente con una forma geometrica tutto geografica tutto quello che appunto hai detto, si potrebbe parlare di un arcipelago underground. Sì, di una rete più che altro. Sì, secondo me nel senso che poi ci sono dei nuclei, sì, dove avvengono, no, come fossero isole, no, che avvengono specializzate, dove ognuno si specializza nella cosa che nella forma di espressione che sente più naturale, certo, certo, fare, e che poi no, come in un arcipelago, ogni isola è, come dire, a sé stante, però è collegata anche a tutte le altre in uno scambio continuo. È così che dovrebbe essere, certo. E chiaramente non è stato facile anche raccontare tutte le realtà di tutto il paese, perché avrei dovuto scrivere tipo un'enciclopedia sul serio, una roba in volumi. Yeah. Penso che sia un motivo per cui si chiama sguardo e non enciclopedia. Esatto, è uno sguardo proprio per quello, ma si chiama black hole in riferimento anche a quello che l'astronomia vuole che siano i buchi neri, proprio perché secondo me questa parte dell'underground è così tanto misteriosa per le persone, è densa sia per le persone che lo vivono e che lo vedono dall'esterno, ma anche per noi stessi che lo viviamo dall'interno, perché non si sa effettivamente dove è iniziato e dove finirà, perché comunque è così fitto, è così denso, così impegnativo anche viverlo, che non sai mai dove quando ci troverai il limite. Spesso sfugge anche, cioè per sua natura sfugge anche a un certo tipo di categorizzazione, comunque non è... E anche c'è una ricchezza che una persona nella dimensione sua di una persona sola è impossibile dare attenzione a tutto, qualsiasi certo. forma, poi tu ti come dire, appunto, ti più o meno ti specializzi nella cosa che senti empaticamente più vicino alla tua, e sono dei percorsi, però seconda del periodo che attraversi può essere una piuttosto che un'altra. Sì, vabbè, ma certo. C'è una cosa sia personale che ambientale, come in tutte le cose. È ovvio che se tu nasci in un posto, che ne so, dove ci sono tanti writer, sarà molto più facile che diventi writer piuttosto che metallaro, e sei vero, sì. Amante del metal. È ovvio che è più facile, ma anche lo stesso approccio a una cosa a seconda del contesto sociale che vivi può essere completamente diverso. Cioè nel bancarcore si vede tantissimo, quando tu vedi un gruppo che suona di Torino, lo vedi che è di Torino, cioè, certo. Perché Torino dal punto di vista sociale c'ha le fabbriche, non più fabbriche, o comunque un determinato contesto che l'ha influenzato tantissimo, certo. No? Piuttosto che Milano, piuttosto che Genova, piuttosto che, insomma, c'è da quella cosa che geograficamente accomuna. Io aggiungerei anche che non bisognerebbe, come diceva anche Mungo, quando ho parlato con Mungo, l'ho intervistato, mi raccontava degli anni Ottanta, bisognerebbe evitare di essere troppo localisti e troppo categorici, nel senso bisognerebbe avere un po' idee espanse, una mente aperta. Ci sta magari che tu cominci, come diceva lui, un percorso personale, perché da qualche parte devi pure iniziare magari vicino al writing, perché nella tua città o nel tuo quartiere c'è tanta diffusione di quel genere lì, di quell'ideale lì. Però ci sta anche che a un certo punto cambi strada, nel senso, e non per forza bisogna essere categorici e dire allora quello lì è veramente un idiota, è un cretino, perché a un certo punto è cambiato, ha preso un'altra via. No, hai fatto la tua esperienza, poi hai capito magari che la tua strada è un'altra, ma poi si cambia anche ciò che è la cosa migliore a 20 anni, ma a 30 magari non ti soddisfa più. Sempre sull'esempio del suonare, perché è quello nel quale io sono stato più attivo e mi rispecchiavo di più. Quando parti, che sei un ragazzino, vedi determinati tipi di istituzione di cattivo occhio, cose a priori, e praticamente c'è tutto un percorso quasi di ghettizzazione, no? L'accordo, c'è sempre avuto questa cosa un po' qui da definirsi da come siamo noi, come non sono loro chi poi, cioè, sì, diventi però, categorico, esatto, diventi, cioè, però all'inizio il così, mio è va bene, è quello degli quasi altri di identitario, non va bene, no? Esatto, che poi iniziano a diventare identitario, poi crescendo, vivendo, facendo più esperienze, vieni scaraventato nel mondo del lavoro, vieni in qualche modo a contatto con realtà che non sono le tue, e quello che per te all'inizio era la cosa che tu avresti cercato di evitare in tutti i modi diventa una cosa che per te è molto più auspicabile, o comunque molto più è una crescita, effettivamente è un percorso di crescita. Parlavo con Francesco di Evolution So Far, dicevo che belli sono certi punk senza cioè dal punto di vista di categorizzazione, comunque loro hanno fatto tipo un primo disco che era un disco che rispondeva a una determinata età, a determinate esigenze, poi hanno cambiato sempre di più. E comunque il loro cambiare come persone è coinciso con il loro cambiare il modo di fare la stessa cosa, che era suonare. Mm-hmm. Cambiano gli ambienti, cambia il pubblico che si avvicina a una certa cosa, perché se prima urlavi robe incomprensibili, ti seguiva per lo più la gente a cui piaceva la roba incomprensibile. Sai, cioè, là c'è anche una differenza di comunicazione, nel senso. No, però urlare, è cambiato il paradigma, sì, comunicativo. Urlare cose incomprensibili sta anche dietro a quello che è la bellezza del punk, poi, no? Alti volumi, distorsioni prepotenti, accordi che a volte nemmeno capisci, e linguaggi violenti, viscerali, come potevano essere i gruppi punk degli anni Ottanta in Italia, i Wretched o gli Indigesti, cioè delle volte nemmeno capisci quello che vogliono dire con determinati testi. Poi la cosa cambia, nell'hip hop sì c'è una grande spinta, c'è anche violenza nel parlare, nel voler comunicare, ma si fa in maniera semplice per poter non più rompere gli schemi ma aggregare, che già è una situazione diversa. Quello che sta succedendo oggi è la voglia di non contestualizzare il periodo che si vive e di fare qualcosa che non è propria. Cioè, quando io sento dei gruppi di ragazzi molto giovani che mi dicono mi sono fatto un gruppo punk e suono una roba alla Wretched, mi viene di dire come riesci a fare una cosa alla Wretched in un periodo come questo? Devi riuscire a contestualizzare, comunica quello che effettivamente vuoi comunicare. Ma infatti l'ambiente che ci circonda per me è tipo la cosa più importante, cioè il fatto che tu fai qualcosa in una determinata città, in un determinato contesto, con determinate persone, va a influenzare tutto quanto, va a influenzare come tu scriverai i testi. Cioè, quando noi creiamo un pezzo non stiamo lì a dirci deve essere più così, alla quello, alla Wretched piuttosto che alla cosa, detto, poi mettiamo lì, facciamo lì come viene, però è molto influenzato da quello che viviamo, dalla quotidianità. Certo, bisogna contestualizzare il proprio periodo. È la cosa più importante. Ed è per quello che poi vai nei vari posti diversi, a Milano in un modo, a Genova in un modo, a Firenze in un modo, a Roma in un altro, perché proprio essendo che trasporti la tua vita nel tuo contesto e giustamente la vita che si fa qua a Genova è diversa da quella che si fa negli altri posti sopracitati, nel bene e nel male, e quindi poi deve venire fuori questa cosa qua. Certo. Io non ho mai capito, per esempio, la tendenza che si hanno adesso molto di suonarlo molto all'americana. Beh, sai, quella è una cosa che è arrivata all'inizio degli anni 90, quando con le prime etichette che cominciavano a portare, a prendere i dischi dall'America, infatti tipo CCM, che sono toscani. Toscana è la prima cosa che ti viene in mente, base militare, quindi tu anche di tutto, o comunque influenza dall'americana. Loro, cioè, io me lo spiego così, che perché lo dicevano anche che li compravano dagli americani, infatti loro, i Juggernaut, quindi in qualche modo a livello di concetto si spiega, cioè, tutto si spiega. Sì, è stato un trasporto, però quelle sono anche robe di mercato che poi tu non puoi infatti calcolare. È stato importante cercare di ricostruire tutta una fetta di, essendo che Genova è sempre stata una città che ha avuto un po' di punti vuoti, no? Per cui quando abbiamo iniziato a suonare noi c'era tutta una cerchia di persone che aveva creato un determinato giro che aveva smesso, o di botto o per i motivi più svariati, e quindi questa è stata un po' una sfiga, perché da un lato un po' una sfiga, un po' una fortuna, perché da un lato non c'era più niente, dovevi costruire qualcosa da capo, però hai cercato di fare qualcosa che fosse davvero tuo, e quindi non era influenzato da qualcosa di, o meglio era influenzato da qualcosa di da precedente, ma non c'era il contatto umano, poi è arrivato in però seguito. È sempre una gaussiana, poi tutti i tipi di, diciamo, scena, anche se non è una, un termine che poi così abusato, però seguono una gaussiana, cioè partono, raggiungono un picco e poi un declino, perché giustamente la creatività, essendo che tutto cambia il contesto, il tempo finisce a un certo esatto, punto. E dove sta lì? Cioè, secondo me lì la vera forza sta nel saper comunicare, altrimenti non esisterà mai un ricambio generazionale, che è uno dei grossi problemi, e non potrà mai succedere che le famose scene possano progredire nel tempo e possano continuare a svilupparsi nel tempo grazie ai giovani che per la prima volta si approcciano. Devo dire che rispetto agli ultimi anni, me ne sono accorto anche durante il tragitto, durante il percorso di scrittura, andando un po' in giro e vedendo un po' come funzionano soprattutto gli spazi occupati, quindi intervistando e chiedendo delle informazioni, devo dire che rispetto alla metà del 2000, in cui la situazione degli spazi occupati era ormai in declino, stavano scomparendo, molti sono stati sgomberati, altri hanno proprio chiuso, sono state abbandonate le attività, oggi rispetto alla musica, per quel che riguarda la politica, sono tanti giovanissimi che si approcciano finalmente di nuovo a quello che è il contesto sociale, il contesto politico. Speriamo non glielo facciano odiare in breve tempo. No, però devo dire, sai, che lo fanno anche senza bisogno di chiedere perché. Fantastico. Si interessano, si informano, c'è di nuovo tanta attività e si mettono di nuovo in prima linea, e questa è una cosa secondo me molto interessante, non sta succedendo purtroppo nella musica, e ne parlavamo oggi, proprio perché all'interno di determinati contesti si continua a ragionare in maniera troppo pesante e troppo lenta, e quello non permette di poter aprire le porte a quelle che sono le nuove generazioni, che sono chiaramente influenzate dai nuovi mezzi di comunicazione, da internet, non solo, ma poi da un effetto anche quasi cristiano, che tu entri in un posto e c'è un peccato originale da farti perdonare. Certo, certo, perché non hai vissuto i periodi d'oro, perché non, non ti sei informato, ma è chiaro che i tempi poi sono cambiati. Poi tutti i casi di ricostruzione, cioè io mi ricordo anche lì il periodo dove noi abbiamo iniziato, che ricostruire tutto quello che c'era stato già solo nella mia città o nella mia regione, che poi alla fine all'inizio la regione quella, cioè ci deve essere pur stato qualcuno prima di noi che ha fatto qua, in questo contesto qua, qualcosa prima di noi. E mi ricordo che ricostruirlo è stata una roba faticosissima, cioè noi andavamo ovunque, in giro a suonare, tutti a Genova, tipo le Kafka. Tutti avevano i dischi dei Kafka, e la risposta standard è: come, tu sei di Genova e non hai i loro dischi, quindi cioè io tutti i dischi che ho dovuto recuperare in giro, certo, sono dovuti andarli a pigliare dopo, perché non, a me c'è stato una specie di vacuum, non so come dire, che poi finiscono sempre che ci sono millanta copie in qualche vecchia distro, in qualche cantina, che sono anche state dimenticate, magari dimenticate lì, che qualche mi è successo. Guarda, l'altra volta ne parliamo dopo il prossimo pezzo, certo, di questo aneddoto, perché abbiamo così almeno il prossimo pezzo, dai, prossimo non pezzo. Mi dispiace tranciarti così, ma è per dare continuità. Guarda, passerei a qualcosa che riguarda, cioè che si lega sempre al punk hardcore delle nostre scene, però di una fase più moderna, che richiama però di nuovo il linguaggio e la forza di quello che era il primo punk italiano, e secondo me potremmo ascoltare Cosa rimane dei Lion Estates, che è un gruppo di Bologna che ben conosce. Eccoci qua, ci devi un aneddoto. Vi devo un aneddoto? Un aneddoto nel senso che stavi raccontando. Ah, che delle... mi è successo, visto che parlavamo proprio di cose dimenticate. Sai, un paio di settimane fa ho presentato il libro a Modena e ho conosciuto una ragazza, momma, che aveva vissuto il periodo, diciamo, forte di Bologna, dell'Isola nel Cantiere. E mi ha detto: guarda, io ho fatto l'Isola nel Cantiere e ti voglio regalare un disco, perché un paio di giorni fa ho ritrovato una scatola di 7 pollici che avevamo prodotto noi con l'Isola nel Cantiere, che nessuno sapeva più dove erano andati a finire, quindi sono rimasti lì, ne ho un bel po' di copie e devo ovviamente darle a qualcuno. Mi fa piacere regalartene una copia, quindi ho tra le mani a casa questo disco ormai introvabile, in questa produzione dell'Isola nel Cantiere, un 7 pollici dove dentro ci sono alcuni dei gruppi più belli dell'hardcore degli anni 90 italiano, dell'hardcore strategico, Provi in Concern, nei Think Twice, Kiss e tanti altri gruppi. Secondo me è importante andare a ricercare, ma è anche importante parlarne, creare un legame con quello che suono, che sono i nuovi e i nuovissimi, potremmo dire, senza per forza creare degli idoli o degli eroi o dire guarda io ho vissuto quel periodo, è chiaro che tu ormai queste cose non le puoi vivere più, perché? Anzi, perché è la cosa più falsa che fosse sì. È successo anche, no, secondo me c'entra anche molto con le frustrazioni e le delusioni dei soggetti in questione, comunque, cioè che magari molta gente reagisce in maniera abbastanza traumatica alle delusioni della vita, magari si immaginavano di attuare chissà quale cambiamento a livello sociale e poi sono persi il grosso delle cose. Guardate che se state qui a parlare, no, rimane registrato, secondo quello che dite poi va, finisce in internet, di voi. No, però è un peccato. No, ma non è tanto per noi, perché noi tanto rimane sotto foto. Era per voi che rimaneva, che poi sapete com'è. Magari il fissarsi sul cambiamento così su vasta portata, quando in realtà ci si dimentica di apprezzare i cambiamenti marginali, i periodi alla fine belli, gli amici conosciuti, cioè quante persone conosciamo, penso tra noi tutti, che abbiamo conosciuto anni fa grazie a questa cosa qui e ancora oggi fanno parte della nostra vita. Magari ti vedi una volta all'anno, esatto, una due volte all'anno, però sì, che facciano parte della tua quotidianità o meno, comunque c'è. Secondo me è quella la vera lezione che c'è da trarre da queste cose qui, più no, che... ma infatti è proprio quello, l'underground è quotidianità. Però io altrimenti... il nonnismo ve lo spiego così, comunque, il nonnismo che c'è su certe cose ve lo spiego che comunque... Basterebbe viversela con tranquillità, come dicevamo oggi, tutti quelli che oggi continuano a viversela in maniera attiva sono fortunatamente tutti quelli che se la sono vissuta negli anni con tanta tranquillità, senza per forza ghettizzarsi e senza per forza alzare delle mura gigantesche contro tutto quello che veniva dopo il loro periodo, dopo la loro esperienza, dopo il loro momento, chiamiamolo così, perché poi sono dei momenti anche veloci, ce li ricordiamo tutti, ne abbiamo vissute di esperienze tantissime, ma sono dei momenti che poi devi portare dentro di te, non c'è per forza, non bisogna per forza vantarsene come qualcosa di incredibile, sono delle cose tue che ti hanno aiutato a crescere. Anche perché poi per quelle cose lì vale il teorema di Gelobia, nel senso che se andasse a chiedere a 100 persone in giro chi è Gelo Biafra, ti parlerebbero del Biafra, alla zona dell'Africa. Sì, esatto. Cioè, quindi c'è bisogno. Davo. Sì, sì, arriviamo a mangiare. Qui si fa pressione. Qui sì, qui vabbè, qua sapete, chi lo sa come sono qua i vecchi a Genova, sapete che per noi sconti non ce ne fanno. Ha detto vecchi. Allora chiudiamo con un altro vecchi. Brano, magari. Allora, se vuoi dire aggiungere qualcosa, mi sembra. No, io che volevo abbiamo... semplicemente aggiungere che ovviamente sì, ho scritto il libro, che è la parte grossa del lavoro, che il film è stato girato, ahimè, con delle attrezzature abbastanza scarse, proprio perché non avevo la possibilità nemmeno economica di coerentemente poter... con la linea. Ed è una roba underground, potremmo dire, do it yourself. Spero di proseguire ancora per un po' con le presentazioni, ne ho dovute purtroppo cancellare alcune, ma riprenderò a settembre. Volevo ringraziarvi per l'opportunità, per l'intervista, per il tempo dedicatomi, poi non so se vogliamo fare dei saluti tipo ciao mamma che mi guarda. Dai, noi abbiamo il nostro saluto, che quindi vi rimandiamo a una prossima, se non si saprà in che forma, puntata di Radio Lanterna Pirata. Non si sa mai, ma si decide sempre sul momento. Assolutamente, sperando che la prossima volta ci facciano fare un po' di più, che non ci dicano c'è da mangiare. C'è da mangiare e noi, io e Gippi, vi salutiamo come sempre con il nostro aspetta. Il pezzo. Vogliamo lanciare l'ultimo pezzo? Pezzo? Dai, stop al panico di Isola Postal Star, che credo che sia... autoesplicativo. Sì. E noi allora, guarda, cioè, mi talmente preso da sta cosa di mangiare, che mi metto un'ansia e mi dimentico di chiedere i pezzi, capito? Ai. 3, 2, colpi. GP, 3, 2, 1, yeah! Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop non aspettare di morire. Scopri l'inganno, il piano per impaurire. Una città segnata dal dolore. Scegli il modo giusto per cancellare questo panico che vogliono far crescere. Cerca di capire bene cosa voglio. Dire. C'è qualcuno che ci vuol far morire. Prima che nel corpo, nell'animo, nel cuore. E qualcun altro che sa cosa fare. Perché è il momento buono per approfittare della paura costruita col fucile. Pronti come avvoltoi per colpire. Cadere al suolo, chiudere, sgomberare. Centri sociali e case occupate. Bologna anche questa volta. Bologna è rossa di vergogna e sangue non sogna più. Anni e anni, anni di cazzate tipo Isola Felice non ha fatto che danni. Bologna è solo il buco del culo del mondo. C'è chi ha avuto a volte chi ha dato e va a fondo. C'è nove in una stanza, chi incassa, chi vive da schiavo, chi tasca tangenti, chi spaccia. Questa è l'altra faccia della medaglia, sì, della medaglia. E qui di nuovo i mandanti nascosti e la tensione, la diffidenza, sì, la divisione. Cade un'illusione, cade, cade in un agguato. Pioggia di piombo, sangue sul selciato. Ma come per piazza Fontana sono io la bestia e non quei figli di puttana. Non so poi così tanti. Panico sei tu che giudichi e scegli le tue vittime, i tuoi facili bersagli. No, è un prezzo che non posso pagare. Mettilo nel culo, quel dito inquisitore. Sono sempre in piedi, reagisco ai tuoi colpi. L'ipocrisia colpisce quando ti volti con sgomberi infami che non soffocano l'azione. E il panico che crea giustificazione. Panico nelle strade tra la gente. Guardami in faccia, usa la tua mente per sciogliere le reti gettate su chi muore sull'ennesima casa che sarà da demolire. Ascolta, il vero assassino è chi manovra i tuoi pensieri, le tue lacrime. Non basta celebrare il dolore, guardati intorno, è inutile sognare. Della polizia è una strategia che ha capito, ha capito. Usa la testa, mostragli il dito. Violenza, violenza, c'è della violenza. Stop al panico, panico, unite la potenza. Kick in the shit, it's the mossy and radical impact. Stop, stop, stop, stop al panico. Stop, stop, stop, stop al panico. Special guest, GGD, Soul Boy, Papa Ricky. Bro. droghe armato dai tubi forti, detonato all'Harmony Studio. Maximum Rispetta, Super Radical Producer Cesca, Squad, Isola nel Cantiere, BPM 8, Radio Città del Capo e tutto il resto del network. E soprattutto vi darà forza alla campagna Stop al Panico. Questa è solo la prima mossa, hai detto. Niente pace, niente giustizia. Ok, io penso sia a posto, si va. Stop it!